che tutte le ragazze fanno a gara a farci innamorare. Lanciano sguardi impertinenti, tesi a farci capitolare. Usano nomi come le ragazze, Sara, Anna e Francesca, ma possono trasformarsi in pantere morbide per ammaliare. Per il sabato sera è grande arte, lanciano filtri per innamorare. Usano nomi come le ragazze, Sonia, Silvia, Manuela, o possono trasformarsi in sirene, cantano per ammagliare. Tesi a farci capitolare.